Ieri si è riunito il CASM, si è riunito l'osservatorio alla presenza del ministro Maroni. In serata sono arrivate queste decisioni che erano state in realtà già preannunciate da tutta una serie di distinguo e di prese di posizioni proprio del ministro, che ha indicato una via diversa da quella che sarà seguita finora. Le decisioni sono state quelle di consentire le trasferte, tutte le trasferte, di consentire quindi a entrambe le tifoserie di essere presenti, indipendentemente dal quindi grado di rischio che era stato attribuito al singolo match, fermo restando alcune limitazioni nella vendita dei biglietti per le gare ritenute più pericolose, e soprattutto poi innovando nella politica di gestione delle trasferte, quindi non solo trasferte consentite, ma quello che era il tabù fino a 2 anni fa, Ma qui cioè. siamo ancora nei fatti o siamo già nelle opinioni? Qui Siamo siamo sempre sempre ancora, nei siamo fatti. ancora nei fatti. 2 anni fa si era deciso, dopo il famoso Roma-Napoli, di vietare le trasferte organizzate, considerate quasi il male assoluto. Oggi si dice che proprio nelle partite a rischio potranno e dovranno essere preferibilmente fatte trasferte organizzate, però con la responsabilità della società, che dovrà, come dire, far accompagnare i tifosi nei pullman o nei treni dai propri steward. Chi vorrà vedere la partita e seguire la propria squadra in trasferta dovrà acquistare il biglietto, ma prima dovrà acquistare il titolo di viaggio, e ci dovrà essere ovviamente un coordinamento costante tra la società, la questura, le forze dell'ordine per gestire, diciamo, la trasferta della tifoseria ospite.